Pomodori verdi fritti al caffè di Whistlestop. Il giornale della signora Wims, bollettino settimanale di Whistlestop, Alabama, 12 giugno 1929. Apre un nuovo caffè. Il caffè di Whistlestop ha aperto la settimana scorsa proprio di fianco a me, alla posta, e le proprietarie E.G. Threadgood e Ruth Jamison affermano che fin dal primo giorno gli affari sono andati a gonfie vele. E.G. dice che la gente non deve avere paura di restare avvelenata perché non è lei che cucina, ma due donne di colore, Sipsy e Onzel, mentre al barbecue c'è Big George, il marito di Onzel. Se qualcuno non c'è ancora stato, E.G. dice che la colazione viene servita dalle 5:30 alle 7:30 e il menù prevede uova, farina di gran turco, biscotti, pancetta affumicata, salsiccia, prosciutto, sugo di carne e caffè, il tutto per 25 centesimi. Per pranzo e cena, pollo fritto, bracciole di maiale al sugo, pesce gatto, pollo e gnocchi o barbecue e tre verdure a scelta, gallette o pane di gran turco, bevande e dessert per 35 centesimi. Fra le verdure IG elenca gran turco alla panna, pomodori verdi fritti, gombo fritto, cavolo riccio, barbabietole, fagioli dell'occhio, patate dolci e fagioli di Lima. Io e la mia metà Wilbur ci siamo stati ed era tutto così buono che ora lui non vuole più mangiare a casa. Fosse vero, passo le giornate a cucinare per quello zuccone, eppure sembra che non ne abbia mai abbastanza. Per finire, Iggy dice che una delle sue galline ha deposto un uovo con dentro una banconota da 10 dollari. Dot Wims. Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 15 dicembre 1985. Evelyn Couch era giunta alla casa di riposo a Rose Terrace insieme al marito Ed in visita alla madre di lui, un ospite recente e indocile. Evelyn era riuscita a sfuggire a entrambi rifugiandosi nel salottino dei visitatori sul retro, dove avrebbe potuto godersi in santa pace i suoi canditi. Ma appena si fu seduta, la donna anziana vicino a lei cominciò a parlare. Mi chiede in che anno qualcuno si è sposato, con chi si è sposato e che cosa indossava la madre della sposa, e 9 volte su 10 saprò dirglielo. Ma accidenti a me, proprio non saprei dirle quand'è che sono diventata così vecchia. Mi è piombato addosso senza che me ne rendessi conto. La prima volta che me ne sono accorta era giugno di quest'anno, quando mi trovavo in ospedale per colpa della cistifellea. Credo che la conservino ancora la mia cistifellea, o forse l'avranno buttata via ormai, chissà. Quell'infermiera cicciona mi aveva appena propinato un altro dei clisteri che a loro piacevano tanto, quando mi accorsi di ciò che avevo al braccio. Era una fascia bianca con scritto Virginia Threadgood, sesso femminile, 86 anni, pensi un po'. Quando sono tornata a casa ho detto alla mia amica signora Otis, l'unica cosa che ci resta da fare è metterci sedute e prepararci a tirare le cuoia. Lei mi ha risposto che preferisce dire passare nel mondo dei più. Povera cara, non ho avuto il coraggio di dirle che, in qualunque modo lo chiami, tirremo tutti quanti le cuoia prima o poi. È buffo come da bambini si pensi che il tempo non passerà mai. Poi, dal momento in cui si raggiungono i 20 anni, passa svelto come il rapido per Memphis. Io credo che succeda a tutti. La vita ti scivola addosso. Di sicuro è successo a me. Un giorno ero una bambina e il giorno dopo ero una donna adulta con il petto e i peli non dico dove. E nel frattempo non mi ero accorta di nulla. Ma io non sono mai stata troppo brava a scuola. La signora Otis e io siamo di Whistlestop, una cittadina a 15 chilometri da qui, vicino ai binari della ferrovia. Siamo state vicine di casa per 30 anni e quando è morto suo marito, il figlio e la nuora si sono messi in testa che venisse ad abitare la casa di riposo e mi hanno domandato di venirci con lei. Io ho detto che ci sarei rimasta per un po' soltanto. Lei ancora non lo sa, ma appena si sarà ambientata io me ne tornerò a casa. Non si sta male qui. L'altro giorno ci hanno dato dei mazzetti di fiori natalizi da appuntare ai cappotti. Il mio era guarnito con palline rosse e quello della signora Otis con un Babbo Natale. Mi è dispiaciuto solo dover rinunciare alla mia micia. Qui non lasciano tenere animali, ma io ne sento la mancanza. Ho sempre avuto almeno uno o due gatti per casa io. L'ho regalata alla bambina della porta accanto, che è anche quella che mi bagna i gerani. Ho 4 vasi di cemento, sa, sotto il portico, tutti fioriti. La mia amica, la signora Otis, ha solo 78 anni ed è tanto cara, ma è così nervosa. Tenevo i miei calcoli in un barattolo sul comodino e lei me li ha fatti nascondere. Diceva che la facevano sentire depressa. Se La signora Otis è uno scricciolo, ma io sono una donna forte, lo vede che ossatura ho. Però non ho mai guidato un'auto. Sono andata a piedi per tutta la vita e non mi sono mai allontanata troppo da casa. Ho sempre dovuto aspettare che fosse qualcun altro ad accompagnarmi al negozio, dal dottore o in chiesa. Tanti anni fa si poteva andare a Birmingham in tram, ma è da un pezzo che l'hanno tolto. L'unica cosa che cambierei della mia vita, se potessi tornare indietro, sarebbe questa: prenderei la patente. Sa, si sente la mancanza delle cose più strane quando si è lontani da casa. A me mancano l'odore del caffè e della pancetta affumicata che friggevo tutte le mattine. Qui non si sente mai odore di cibo e non servono mai nulla di fritto. È tutto bollito e senza un pizzico di sale, e la roba bollita non dà soddisfazione, vero? La vecchia signora non aspettò la risposta. Tutti i pomeriggi prendevo cracker con il latticello, oppure latticello e pane di mais. Mi piaceva romperlo nella tazza e mangiarlo con il cucchiaio. Ma in pubblico non si può mangiare come a casa propria, non è così? E soprattutto mi manca il legno. La mia casa è soltanto una baracca con un salottino, una stanza da letto e una cucina, ma è tutta di legno anche dentro. È così che mi piace. I muri di gesso invece non mi piacciono, mi sembrano freddi, come inamidati. Da casa mi ero portata un quadretto. C'era una ragazza su un'altalena con sullo sfondo un castello e delle bolle blu. L'avevo appeso in camera, ma l'infermiera mi ha detto che la ragazza era nuda dalla vita in su e non stava bene. Avevo quel quadretto da 50 anni e non mi ero mai accorta che la ragazza fosse nuda. Se me lo chiede, non credo che i vecchi che ci sono qui ci vedano abbastanza bene per notare che hai il seno scoperto. Ma questa è una casa di riposo metodista, così adesso il quadretto è nel cassetto del comodino accanto ai miei calcoli. Mi piacerebbe tornare a casa. Naturalmente la troverei molto sporca. Era da un pezzo che non spazzavo quando me ne sono andata. Un giorno sono uscita e ho tirato la mia scopa contro due ghiandaie che litigavano, ma la scopa è rimasta impigliata nei rami dell'albero. Quando torno a casa dovrò chiedere a qualcuno di salire a prendermela. Comunque, l'altra sera, quando il figlio della signora Otis ci ha portati a casa per il tè di Natale organizzato dalla chiesa, siamo passati vicino ai binari, dove una volta c'era il caffè, e in First Street, vicino alla casa vecchia Threadgood. Naturalmente ormai la casa sta cadendo a pezzi, ma nel momento in cui le siamo passate davanti, i fari dell'auto hanno illuminato le finestre in modo tale che, per un attimo, mi è sembrato che la casa fosse ancora quella di 70 anni fa, piena di luci, rumore, divertimento. E mi è sembrato di sentire ancora le risate ed Essie Roo che suonava il pianoforte nel salottino. Mi è parso addirittura di vedere Iggy Threadgood appollaiata sul paternostro, pronta a mettersi a ululare come un cane ogni volta che Essie Roo attaccava a cantare. Diceva sempre che una vacca sapeva ballare meglio di quanto Essie Roo sapesse cantare. Passare vicino a quella casa mi ha messo addosso molta nostalgia e mi ha fatto tornare indietro con la mente. Ricordo tutto come se fosse ieri, ma in fondo non c'è nulla della famiglia Threadgood che io non ricordi. Per forza siamo stati vicini di casa dal giorno in cui sono nata e ho sposato uno dei loro figli. Erano 9 fratelli e 3 delle femmine, Essie Roo e le gemelle, avevano più o meno la mia età, così andavo sempre a casa loro a giocare e spesso ci passavo anche la notte per un pigiama party. Mia madre morì di tubercolosi quando avevo 4 anni e quando anche mio padre morì, a Nashville una sera andai a dormire a casa loro e ci rimasi per sempre. In un certo senso è stato un pigiama party senza fine. Il giornale della signora Weems, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama. 8 ottobre 1929. Meteorite colpisce abitazione a Whistle Stop. La signora Biddy Louise Otis, che abita al numero 401 di First Street, riferisce che giovedì notte un meteorite da 1 chilo ha sfondato il tetto della sua casa, mancandola di poco e colpendo in pieno la radio che lei stava ascoltando in quel momento. La signora Otis stava seduta sul divano perché sulla poltrona c'era il cane e si era appena sintonizzata col suo programma preferito quando è accaduto il fatto. Ora nel suo tetto c'è un buco di 1,5 metri e la radio è spezzata in due. Berta e Harold Wick hanno festeggiato il loro anniversario sul prato di casa perché tutti i vicini potessero vederli. Congratulazioni anche al signor Earl Adcock Senior, dirigente della ferrovia L&N, che è appena stato nominato grande illuminato sovrano del benevole protettivo Ordine degli Alci, ordine numero 37, del quale è membro anche la mia dolce metà Wilbur. Per finire, Iggy dice che se volete mangiare qualcosa cotto sulla brace potete mandarlo al caffè e Big George lo cuocerà per voi, polli per 10 centesimi e maiali a peso. Dot Wims. casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 15 dicembre 1985. Un'ora più tardi la signora Threadgood stava ancora parlando. Evelyn Couch aveva finito 3 Milky Way e stava aprendo una merendina al cacao, domandandosi quando l'anziana signora si sarebbe decisa a stare zitta. Sa, è un peccato che casa Threadgood sia stata abbandonata. Sono successe tante cose là dentro. Ci sono nati tanti bambini e ci abbiamo vissuto tanti bei momenti. Era una casa grande, a due piani, in legno verniciato di bianco e il portico correva anche su un lato. Le camere da letto erano tappezzate con una carta a motivi su fondo rosa, che diventava così bella quando di sera si accendeva la luce. I binari passavano a pochi metri dal giardino, sul retro, e nelle sere d'estate il prato era pieno di lucciole e nell'aria c'era il profumo del caprifoglio selvatico che cresceva lungo la ferrovia. Sul retro papà aveva piantato dei fichi e dei meli e aveva costruito per la mamma un bellissimo pergolato bianco per farci crescere il glicine. Vi crescevano anche molte rose, è un peccato che lei non abbia mai visto quella casa. Mamma e papà Threadgood mi allevarono come se fossi stata figlia loro e io volevo bene a tutta la famiglia, specialmente a Buddy, anche se ho sposato Clio, il suo fratello maggiore, il chiropratico. E fu un bene, perché qualche anno dopo cominciai a soffrire di mal di schiena e non ebbi bisogno di andare dal dottore. Come avrà già capito, ho frequentato Iggy e la sua famiglia per tutta la vita e posso dirle che è stato meglio che andare al cinema, sicuro. Ma io sono sempre stata una di quelle che si lasciano trascinare e libera di crederci o meno. Ho cominciato a parlare così tanto solo dopo i 50 anni e non sono più riuscita a fermarmi. Una volta Clio mi disse «Ninni». Il mio nome è Virginia, ma mi chiamavano tutti Ninni. «Ninni, non parli d'altro che di quello che Iggy ha detto e Iggy ha fatto. Non hai niente di meglio da fare che gironzolare tutto il giorno intorno al caffè?» Io ci ho pensato un po', poi gli ho risposto «No, non credo di avere di meglio da fare». E questo non per umiliarlo, ma perché era la verità. Ho seppellito Clio 31 anni fa e mi domando ancora se si offese quando gli diedi quella risposta, ma non credo perché nonostante tutto lui amava Iggy, non meno di tutti noi, e lei riusciva sempre a strappargli una risata. Era la sua sorellina, una vera sagoma. Lei e Ruth erano le proprietarie del caffè di Whistle Stop. Iggy faceva le cose più pazze solo per il gusto di veder ridere la gente. Una volta mise dei gettoni per il poker nel cestino delle offerte della Chiesa Battista. Era fatta a modo suo, ma come qualcuno abbia potuto pensare che sia stata lei a uccidere quell'uomo, questo non lo capirò mai. Per la prima volta, Evelyn smise di mangiare e guardò la dolce vecchietta con il suo abito stampato a fiori dai colori un po' stinti, i riccioli d'argento e la gola mai secca. Qualcuno dice che tutto cominciò il giorno in cui Iggy conobbe Ruth. Ma secondo me cominciò quella domenica, il 1 aprile 1919, lo stesso anno in cui Leona sposò John Justice. Sono sicura che fosse il 1 aprile, perché quel giorno Iggy venne a tavola mostrando a tutti quanti una scatoletta bianca con dentro un dito umano posato su un pezzo di cotone. Diceva di averlo trovato in giardino, poi saltò fuori che era soltanto il suo dito infilato in un buco aperto sul fondo della scatola. Pesce d'aprile! Tutti lo trovarono uno scherzo divertente, tranne Leona. Lei era la sorella maggiore e la più carina e papà Threadgood la viziava come una principessa. Anche tutti gli altri, immagino. Iggy aveva 10 o 11 anni all'epoca e portava un abito di organza bianco nuovo di zecca. Tutti quanti le dissero che le stava bene. Ci stavamo divertendo un mondo ed eravamo pronti per la crostata di mirtilli quando Iggy, all'improvviso, si alzò e annunciò «Non metterò mai più un vestito così per il resto della vita». E con questo andò al piano di sopra. Si infilò un paio di pantaloncini corti di Buddy e una camicia. A tutt'oggi non ho capito che cosa le fece prendere questa decisione. Nessuno l'ha mai capito. Ma Leona, che conosceva Iggy e sapeva che non diceva mai nulla a Vanvera, cominciò a piangere. «Oh, papà, Iggy rovinerà il mio matrimonio, lo so!» Ma papà rispose «No, bambina mia, non succederà. Sarai la più bella sposa dell'intero stato dell'Alabama». Papà aveva dei grandi baffoni neri. Ci guardò tutti quanti e disse «Non è così, bambini?» E tutti quanti giurammo di sì per consolare Leone e farla stare zitta. Tutti, tranne Buddy, che rimase seduto a ridacchiare. Iggy era la sua preferita e tutto quello che lei faceva per lui andava bene. Leona stava finendo la sua fetta di torta e quando tutti ormai pensavamo che si fosse calmata, si mise a gridare così forte che Sipsy, la donna di colore, lasciò cadere qualcosa in cucina. «Oh, papà, che succederà se qualcuno di noi dovesse morire?» «Una strana idea, non le pare?» Guardammo tutti la mamma, che posò la forchetta sul tavolo. Sentite, bambini, sono sicura che vostra sorella sarà disposta a indossare un vestito adatto se e quando sarà necessario. È testarda, ma non è del tutto irragionevole. Poi, un paio di settimane dopo, sentì la mamma dire a Ida Eames, che stava confezionando il vestito per la sposa, che Parigi voleva giacca e pantaloni di velluto verde con il cravattino a farfalla. Ida guardò la mamma come se fosse ammattita. Giacca e pantaloni? E la mamma, lo so, Ida, lo so, ho cercato come potevo convincerla a mettersi qualcosa di più adatto a un matrimonio, ma questa mia figlia ha una testa tutta sua. E ce l'aveva e come, già a quell'età. Io credo che volesse somigliare il più possibile a Buddy. Erano una gran bella coppia quei due. La vecchia signora rise. Per un po' rimase a casa nostra un procione di nome Cookie, e io passavo ore a guardarlo mentre cercava di lavare un cracker. Gli mettevano una ciotola d'acqua in giardino e gli davano un cracker, e lui li lavava uno dopo l'altro e non riusciva a capire che cosa gli succedesse quando sparivano nell'acqua. Ogni volta guardava le sue zampette vuote e si meravigliava. Non riusciva a capire dove andasse a finire il cracker. Passò buona parte della sua vita a lavare cracker. Lavava anche i biscotti, ma non era così divertente. Una volta lavò un cono gelato. Ma adesso è meglio che smetta di parlare di quel procione, altrimenti crederanno che sia pazza come la signora Philbin, quella che sta in fondo al corridoio. La poveretta creda di essere in rotta per l'Alaska su Love Boat. Ci sono un sacco di smemorati qua dentro che non ricordano più neanche il loro nome. Il marito di Evelyn, Ed, si affacciò alla porta del salottino e le fece segno. Evelyn appallottolò le carte vuote dei dolciumi, le infilò in borsetta e si alzò. «Mi scusi, ma quello è mio marito. Devo andare.» La signora Threadgill la guardò sorpresa. «Deve proprio?» «Sì, è meglio di sì, mi ha chiamata. È stato divertente parlare con lei. Come si chiama, cara?» «Evelyn.» «Tornerà a trovarmi? Mi piacerebbe chiacchierare ancora con lei. Arrivederci!» le gridò dietro e si mise ad aspettare un altro malcapitato. Il giornale della signora Wims, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama. 15 ottobre 1929. Polemica in città. A chi appartiene il meteorite? La signora Vesta Haddock e suo figlio Earl Jr. sostengono di essere per diritto i proprietari del meteorite, in quanto gli Otis hanno preso in affitto la casa colpita dal meteorite da loro e quindi, oltre ad essere loro la casa, è loro anche il meteorite. La signora B.D. Lewis Otis, interrogata in proposito, sostiene che il meteorite è suo perché ha colpito la sua radio. Il marito Roy, frenatore della Southern Railroad, stava facendo il turno di notte e non era a casa in quel momento, ma dice che l'evento è perfettamente normale perché nel 1833 caddero in una sola notte 10.000 meteoriti. E questo invece è solo uno, e quindi non è il caso di prendersela tanto a cuore. Biddy pensa di tenerlo come ricordo. Per finire, è solo la mia immaginazione o stiamo entrando in un periodo difficile? La mia dolce metà dice che la scorsa settimana si sono presentati al caffè 5 nuovi vagabondi che hanno chiesto qualcosa da mangiare. Dot Wims. Accampamento Vagabondi, Davenport, Iowa, 15 ottobre 1929. 5 uomini sedevano rannicchiati intorno al fuoco. Ombre nere e arancio danzavano sui loro visi mentre bevevano caffè annacquato dalle tazze di latta. Erano Jim Smokey Phillips, Elmo Inky Williams, Bo Weevil Jake, Crackshot Sackett e Chattanooga Red Barker, 5 dei 200.000 uomini e ragazzi che quell'anno battevano le campagne. Smokey Phillips alzò gli occhi, ma non disse nulla, e lo stessero fecero i suoi compagni. Erano molto stanchi e abbattuti quella sera, perché quel primo freddo dell'aria notturna preannunciava l'inizio di un altro inverno aspro e spietato, e Smokey sapeva che presto avrebbe dovuto dirigersi a sud, insieme agli stormi di anatre, proprio come faceva ormai da anni. Era nato in una mattina di gelo sulle montagne fumose del Tennessee. Suo padre, un uomo con le gambe ossute, distillatore clandestino innamorato del proprio prodotto, aveva compiuto l'errore fatale di sposare una brava ragazza, una fanciulla di campagna la cui vita gravitava intorno alla chiesa battista. Smokey aveva trascorso buona parte della fanciullezza seduto per ore su panche di legno in compagnia della sorellina Bernice, assistendo a canti interminabili e pediluvi. Sua madre era stata una di quelle donne che durante le funzioni ogni tanto si alzano e cominciano a blaterare, farfugliando cose senza senso in una lingua sconosciuta. Alla fine, mentre lei era sempre più infervorata dallo spirito, il marito aveva cominciato a esserlo sempre meno e a un certo punto aveva smesso di recarsi in chiesa. «Credo in Dio», aveva detto ai figli, «ma non è necessario dare fuori di matto per provarlo». Poi una primavera, quando Smokey aveva 8 anni, Le cose erano peggiorate all'improvviso. La madre disse di aver saputo dal signore che il marito era posseduto dal demonio e per questo lo aveva denunciato alla polizia. Smokey ricordava bene il giorno in cui avevano spinto suo padre giù per il sentiero che scendeva dalla distilleria puntandogli un fucile alla schiena. Passando accanto alla moglie, lui l'aveva guardata confusa e aveva detto: «Donna, lo capisci che cosa hai fatto? Ti sei tolta il pane di bocca!» Fu l'ultima volta che Smokey lo vide. Dopo che suo padre se ne fu andato, la madre aveva finito per scivolare completamente nella pazzia e si era unita a un gruppo di incantatori di serpenti nel nome del Signore. Una sera, dopo un acceso sermone durato più di un'ora, il predicatore, un uomo dalla capigliatura indomabile, aveva eccitato la sua congregazione scalza a tal punto che tutti si erano messi a cantare, agitando le braccia e battendo i piedi per terra. Allora lui aveva infilato le mani in un sacco di patate e ne aveva estratto due enormi serpenti a sonagli, cominciando a farli roteare in aria, perduto nello spirito. Smokey, paralizzato sulla panca, aveva stretto forte la mano della sorellina. Il predicatore sbraitava, esortando i credenti a prendere i serpenti e a lavare l'anima nella fede di Abramo. All'improvviso la madre di Smokey si era alzata, aveva afferrato uno dei rettili guardandolo dritto negli occhi. Poi aveva cominciato a biascicare parole in quella sua lingua ignota, continuando a fissare il serpente negli occhi gialli. Tutti nella stanza avevano preso a ondeggiare e gemere. Quando lei aveva cominciato ad aggirarsi tra i banchi con il rettile, i fedeli a uno si erano gettati sul pavimento, dimenandosi, gridando, rotolando su e giù per i corridoi. Nel caos più assoluto, lei continuava a biascicare: «Ossa, Elamna, Essamia!» Prima che Smokey potesse rendersene conto, la sorellina Bernice si era staccata da lui, era corsa dalla madre e l'aveva tirata per il vestito. «Mamma, no!» Con gli occhi spalancati in trance, la madre aveva spostato lo sguardo sulla figlia per un secondo, e in quel secondo il serpente a sonagli era scattato in avanti, mordendole la guancia. Lei l'aveva guardato, stupefatta, e quello aveva colpito di nuovo, affondandole i denti nella giugulare. Lei l'aveva lasciato cadere per terra con un tonfo, e il serpente, sdegnoso e sprezzante, se n'era andato strisciando, come se niente fosse, lungo il corridoio. La madre di Smokey aveva volto lo sguardo per la chiesa, piombata nel più assoluto silenzio, con un'espressione stupita sul volto, ma i suoi occhi si erano appannati e si era accasciata lentamente a terra. Era morta in meno di un minuto. In quel momento lo zio aveva preso Smokey e si era avviato verso la porta. Bernice era andata a vivere con una vicina e Smokey era rimasto a casa dello zio. Poi, compiuti 13 anni, si era avviato lungo i binari della ferrovia e non era mai più ricomparso. L'unica cosa che aveva portato con sé era una fotografia di sua sorella. Ogni tanto la tirava fuori e la contemplava. C'erano tutti e due nella foto ormai sbiadita e avevano le labbra e le guance dipinte di rosa. Lei era una ragazzina con i boccoli e un nastro rosa legato in cima alla testa. Al collo portava una collanina di perle. Lui le sedeva alle spalle, i capelli castani lisciati all'indietro, la guancia premuta contro quella della bambina. Si era domandato spesso come stesse Bernice e più volte si era ripromesso di andarla a cercare. Quando era sui 20 anni, un controllore delle ferrovie lo aveva buttato giù da un carro merci facendolo piombare in un fiume giallo e freddo in Georgia. E la foto era andata perduta. Adesso Smokey non pensava quasi più a Bernice, se non quando era su un treno che attraversava le montagne fumose di notte, in viaggio, per chissà dove. Quella mattina Smokey Phillips era su un treno proveniente dalla Georgia e diretto in Florida. Non mangiava nulla da 2 giorni e ricordò che il suo amico Elmo Williams gli aveva parlato di 2 donne che gestivano un caffè fuori Birmingham ed erano sempre disposte a sfamare i vagabondi di passaggio. Durante il viaggio aveva visto il nome del caffè scritto sulle pareti di diversi carri merci e così, quando vide il cartello Whistle Stop Alabama, saltò giù dal treno. Trovò il caffè dall'altra parte dei binari, proprio come aveva detto Elmo. Era una costruzione verde con una tenda a righe bianche e verdi con scritto Whistle Stop Café sotto un'insegna della Coca-Cola. Girò sul retro e bussò alla porta. Attraverso la zanzariera vide una negretta occupata a friggere pollo e pomodori verdi affettati. La negretta lo vide e gridò: «Signorina Iggy!» Poco dopo venne ad aprirgli una donna alta e di bell'aspetto, con le lentiggini e i capelli biondi ricci. Portava una camicia bianca e un paio di pantaloni da uomo. Sembrava poco più che 20enne. Lui si tolse il cappello. «Mi scusi, signora, non è che per caso avete qualche lavoro da darmi? Ultimamente non me la passo troppo bene». Iggy guardò l'uomo con la giacca sporca e consumata, la camicia marrone che aveva visto tempi migliori e le scarpe senza lacci, e capì che non stava mentendo. «Entri», rispose, «credo proprio che troveremo qualcosa per lei». Igi gli domandò come si chiamava. Smoky, signora. Lei si rivolse alla donna dietro il banco. Smoky non vedeva da mesi una donna tanto pulita e ordinata, e questa, oltretutto, era la più carina che avesse mai incontrato in vita sua. Portava un vestito di organza a pois e i capelli rosso tiziano erano legati con un nastro dietro la testa. Ruth, questo è Smoky, lavorerà per noi. Ruth lo guardò e sorrise. Molto bene, felice di conoscerla, Smoky. Igi gli indicò il bagno degli uomini. Perché non va a rinfrescarsi, poi metterà qualcosa sotto i denti. Sì, signora. Il bagno era grande, c'era una luce che pendeva dal soffitto. Quando Smoky l'accese, vide in un angolo una vasca con i piedi e il gradino e un tappo di gomma nera attaccato a una catenella. Sul lavandino, già pronti, c'erano un rasoio e del sapone da barba con un pennello. Quando si guardò allo specchio, si vergognò di essersi presentato tanto sporco, ma era da diverso tempo che non entrava in contatto con una saponetta. Cercò di togliere il nero dalla faccia e dalle mani. Erano 24 ore che non beveva e le mani gli tremavano a tal punto che non riuscì a radersi come si deve, ma fece ugualmente del suo meglio. Quando si fu messo il dopobarba e pettinato con il pettine che aveva visto sulla mensola sopra il lavandino, tornò nel caffè. Igi e Ruth gli avevano apparecchiato un posto a tavola. Lui si sedette davanti a un piatto di pollo fritto, fagioli, barbabietole e pomodori verdi fritti. Il tutto era accompagnato da pane di gran turco e tè freddo. Prese la forchetta e cercò di mangiare. Le mani gli tremavano ancora e non riusciva a infilare il cibo in bocca. Si rovesciò il tè sulla camicia. Sperava che non lo stessero guardando, ma dopo un attimo la bionda disse: «Venga con me, Smoky, andiamo a fare due passi». Lui prese il cappello, si pulì la bocca con il tovagliolo, pensando che lo stessero buttando fuori. «Sì, signora». Lei lo portò dietro il caffè dove c'era un campo. «Lei è un tipo nervoso, vero?» Mi dispiace di essermi comportato male a tavola, signora, ma a dire la verità, beh, me ne andrò per la mia strada e grazie lo stesso. Igi infilò una mano nella tasca del grembiule, prese una fiaschetta di whisky e gliela porse. Smoky sapeva apprezzare certi gesti. Che Dio la benedica, signora, disse, e si sedettero su un tronco poco lontano dalla casa. Mentre Smoky si calmava i nervi, lei gli parlò. Lo vede questo pezzo di terra incolta? Lui guardò. Sì, signora. Anni fa era il più bel lago di Whistlestop. D'estate ci venivamo a nuotare e pescare, ci si poteva anche fare un giro in barca volendo. Igi scosse tristemente la testa. Sapesse quanto mi manca. Smoky guardò il prato. E come mai non c'è più? Si è prosciugato? Lei accese una sigaretta e gliela porse. Peggio! Un novembre, un enorme stormo di anatre, almeno una quarantina, andarono a posarsi proprio in mezzo al lago e nel pomeriggio, mentre nuotavano tranquille, successe quella cosa strana. La temperatura scese di colpo e l'acqua si ghiacciò. Divenne solida come pietra nel giro di 3 secondi. Uno, due, tre, così. Smoky la guardò stralunato. Dice sul serio? Certo. Le anatre saranno morte. È questo il punto. Non morirono, ma volarono via e portarono con sé il lago. E adesso il nostro lago sarà da qualche parte in Georgia. Lui si girò a guardarla. E quando capì che stava scherzando, raggrinzì gli occhi celesti e cominciò a ridere così forte che gli venne da tossire e lei dovette dargli una botta sulla schiena. Si stava ancora asciugando le lacrime quando tornarono nel caffè dove il suo pranzo lo aspettava. Quando si sedette a mangiare, Smoky si accorse che il cibo scottava. Qualcuno gliel'aveva tenuto in caldo. Il giornale della signora Wims, bollettino settimanale di Whistlestop, Alabama. 22 ottobre 1929. Meteorite esposto al caffè. La signora B. di Louis Otis ha annunciato quest'oggi di voler portare il meteorite che le ha sfondato il tetto la settimana scorsa al caffè, in modo tale che la gente smetta di bussare alla sua porta per saperne di più, perché è occupata con il trasloco. Spiega che si tratta soltanto di un grosso sasso grigio, ma se qualcuno ci tiene a vederlo, ora potrà farlo. Igi vi invita ad andare al caffè quando volete, il meteorite sarà esposto sul banco. Sono spiacente di non avere altre notizie questa settimana, ma la mia dolce metà Wilbur ha l'influenza e ho dovuto assisterlo giorno e notte. Esiste qualcosa di peggio di un uomo malato? Ah, siamo dolenti di annunciare che la nostra cara Bessie Wick, 98 anni, suocera di Berta, è morta ieri, probabilmente di vecchiaia. Dot Wims. Casa di riposo, Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 22 dicembre 1985. La domenica successiva, quando Evelyn entrò nel salottino dei visitatori, la signora Threadgood era seduta sulla stessa sedia con lo stesso vestito e l'aspettava. Contenta come una allodola, riprese a parlare di casa Threadgood, come se quell'intervallo di una settimana non fosse mai esistito. Ed Evelyn non poté fare altro che aprire il suo candito alle mandorle, sedersi e ascoltare. In giardino c'era un grande vecchissimo paternostro. Ricordo che raccoglievamo le bacche per tutto l'anno e a Natale le univamo con un filo e le usavamo per guarnire l'albero. La mamma ci diceva sempre di non infilare le bacche su per il naso e naturalmente la prima cosa che Iggy fece appena ebbe imparato a camminare fu di uscire in giardino e infilarsi bacche nel naso e anche nelle orecchie. Certe volte dovevano persino chiamare il dottor Hedley. Signora Threadgood, diceva la mamma, mi sembra proprio che lei abbia per caso una piccola furfantella. Naturalmente Buddy era felice di sentirglielo dire, incoraggiava la sorella in ogni sua iniziativa, ma è così che funziona nelle famiglie numerose. Ciascuno ha il proprio favorito. Il suo vero nome era Imogen, ma Buddy aveva cominciato a chiamarla Iggy. Buddy aveva 8 anni quando lei nacque e se la portava in giro per tutta la città come un bambolotto. Quando lei fu abbastanza grande per camminare, lo seguiva come un anatroccolo, trascinandosi dietro un galletto di legno. Quel Buddy aveva personalità da vendere, con i suoi occhi neri e i denti bianchi, incantava chiunque. Non conosco una sola ragazza a Whistlestop che non sia stata innamorata di lui. Dicono che non si dimentichi mai la festa dei 16 anni, ed è proprio vero. E io ricordo ancora la torta bianca e rosa con sopra la giostra e il pancia al limone che mamma aveva preparato nella ciotola di cristallo. Per non parlare delle lanterne di carta appese in tutto il giardino, ma quello che ricordo meglio di ogni altra cosa fu quando Buddy Threadgood mi rubò un bacio sotto il pergolato. Lo fece davvero, ma io ero solo una delle tante. Iggy era sempre occupata a recapitare qualche biglietto d'amore da o per Buddy, al punto che cominciammo a chiamarla Cupido. Aveva i capelli corti, biondi e ricci, gli occhi azzurri e le lentiggini. Assomigliava ai parenti di sua madre. Da ragazza la mamma si chiamava Alice Lee Cloud. Era una Cloud prima di sposarmi, diceva sempre. Era tanto cara. Quasi tutti in famiglia avevano gli occhi azzurri, tranne Buddy e la povera Isiriu, che ne aveva uno marrone e uno azzurro. La mamma le diceva che era questo il motivo per cui aveva tanto talento musicale. Vedeva il lato buono di ogni cosa. Una volta Iggy e Buddy rubarono 4 enormi angurie al vecchio Sokwell e le nascosero nell'orto. La mattina dopo, prima che potessero recuperarle, la mamma le aveva trovate ed era convinta che fossero cresciute durante la notte. Secondo Cleo, ogni anno restava delusa perché il fenomeno non si ripeteva una seconda volta. Nessuno ebbe mai il coraggio di dirle che quelle angurie erano state rubate. Mamma era battista e papà metodista. Papà diceva di non sopportare di avere la testa sott'acqua. Così ogni domenica, appena uscito di casa, andava a sinistra, alla prima chiesa metodista, e noi altri prendevamo a destra, alla chiesa battista. Ogni tanto Buddy andava con papà, ma a un certo punto smise, diceva che le ragazze battiste erano più carine. C'era sempre un mucchio di gente dai Threadgood. Un'estate la mamma invitò ad alloggiare a casa nostra un grasso predicatore battista venuto in città per una riunione. E ogni volta che lui usciva, le gemelle andavano in camera sua e si mettevano a giocare in un paio dei suoi pantaloni. Patsy Ruth entrava in una gamba e Mildred nell'altra, e si divertivano così fino a quando non lo sentivano salire le scale. Una volta tardarono ad accorgersene e si spaventarono a tal punto che Mildred scappò in una direzione e Patsy Ruth nell'altra e i pantaloni si strapparono in due. La mamma disse che se il papà non le aveva sculacciate a dovere era solo perché il predicatore era battista. Ma questo non fu mai motivo di crisi perché dopo la chiesa tornavamo tutti a casa per il pranzo domenicale. Papà Threadgood non era ricco, ma a noi sembrava che lo fosse. Era proprietario dell'unico negozio della città. Ci potevi trovare qualunque cosa, dall'asse per lavare alle stringhe, da un bustino ai sottaceti, che potevi prelevare direttamente dal barile. Buddy lavorava al banco e darei tutto il tè della Cina per uno dei suoi frappè alla fragola. Tutti quanti a Whistlestop facevamo i nostri acquisti lì. Per questo fummo molto sorpresi quando nel 22 il negozio chiuse. Secondo Cleo è fallito perché papà non sapeva dire di no a nessuno, bianco o nero che fosse. Qualunque cosa gli chiedessero, lui la metteva in un sacchetto e gliela lasciava a credito. Cleo diceva sempre che il patrimonio di papà era uscito poco a poco dalla porta, sotto forma di sacchetti di carta. Ma nessuno dei Threadgood era capace di dire di no. Erano disposti a darti anche la camicia se gliela chiedevi, e Cleo non era diverso da loro. Cleo ed io non abbiamo mai avuto grilli per la testa, ma il buon Dio ha sempre pensato a noi e non ci ha mai fatto mancare nulla. Secondo me la povera gente è anche brava gente, tranne naturalmente le eccezioni, e quelli sarebbero cattivi anche se fossero ricchi. Qui a Ross Terrace ci sono soprattutto poveri, vivono della loro pensione e molti si curano con la mutua. guardò Evelyn. Mia cara, c'è una sola cosa al mondo di cui non si può fare senza, ed è la mutua. Tutti dovrebbero averla. Ci sono poche signore qui. Un paio di settimane fa, West Adcock, quello scricciolo di donna di Whistle Stop, è arrivata tutta impellicciata e inanellata. Lei è una delle poche ricche, ma i ricchi non mi sembrano molto felici e le dirò qualcos'altro. I loro figli non li vengono a trovare più spesso degli altri. Norris e Francis, il figlio e la nuora della signora Otis, vengono a trovarla ogni settimana, con la pioggia o con il sole. È per questo che la domenica me ne resto qui nel salottino, per dar loro un po' di privacy. Ma le si spezzerebbe il cuore se vedesse come certi aspettano sempre inutilmente che qualcuno venga a trovarle. Il sabato si fanno pettinare i capelli e la domenica mattina si mettono in gingheri e il più delle volte non viene nessuno. A me dispiace, ma che cosa ci posso fare? Avere figli non significa ricevere anche visite, proprio per niente. Il giornale della signora Weems, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama, 12 luglio 1930. Whistle Stop cresce poco a poco. Opal Threadgood, la moglie di Julian, ha preso in affitto la casa 2 porte più in là dell'ufficio postale e vi aprirà un salone di bellezza. Finora pettinava la gente in cucina, ma Julian le ha detto di smetterla perché dalla loro porta di servizio entravano e uscivano ogni giorno talmente tante donne che le loro galline avevano smesso di deporre le uova. Opal dice che i prezzi non cambieranno: shampoo e piega per 50 centesimi, permanente per 1,50 dollari. Io sono la prima a rallegrarmi di questa nuova iniziativa nata nella nostra strada operosa. Provate a pensarci: ora potete imbucare una lettera, pranzare e farvi acconciare i capelli tutto nello stesso isolato. Ci manca solo un fotografo adesso, così non saremo più costretti ad andare a Birmingham. La signora e il signor Glass hanno organizzato l'annuale riunione di famiglia in giardino. I Glass sono giunti da tutto lo stato e Wilma ha detto che la torta, oltre che bella, era anche deliziosa. Per finire, la mia dolce metà si è uncinata un dito l'altro giorno mentre stava pescando, così adesso è a casa che geme e si lamenta. Dot Weems. Caffè di Whistle Stop, Alabama, 19 novembre 1931. Ormai il nome del caffè era scritto sulle pareti di centinaia di carri merci da Seattle alla Florida. Splinter Belly Jones giurava di averlo visto persino in Canada. Fu un anno particolarmente sfortunato, quello. Di notte i boschi intorno a Whistle Stop erano illuminati dai fuochi dei vagabondi e non c'era uno solo di essi al quale Iggy e Ruth non avessero dato almeno una volta da mangiare. Cleo, il fratello di Iggy, era molto preoccupato. Era venuto al caffè per prendere sua moglie Ninni e il loro figlio Albert. Ora stava bevendo una tazza di caffè e mangiando noccioline. Iggy, non è necessario che tu dia da mangiare a tutti quelli che bussano alla tua porta. Devi pensare al tuo profitto. Giulia mi ha detto che l'altro giorno è venuto qui e ce n'erano 7 che mangiavano seduti a un tavolo. Secondo lui saresti capace di lasciare Ruth e il bambino a digiuno pur di sfamare quegli zotici. Iggy non gli badò più di tanto. Che cosa vuoi che ne sappia, Julian? Se non fosse per Opal e il suo salone di bellezza, verrebbe lui stesso a bussare alla mia porta. Perché gli dai ascolto? Ha meno cervello di una capra selvatica. Su questo Cleo non poteva che essere d'accordo. Non si tratta di Julian, è di te che mi preoccupo. Lo so. Voglio che tu badi ai tuoi affari prima di pensare agli altri. Iggy gli sorrise. Cleo, lo sanno tutti che metà degli abitanti di questa città ti devono 5 anni di arretrati, eppure non mi sembra che tu li abbia mai cacciati via a calci. Ninni, che di solito non si intrometteva, questa volta lo fece. Ha ragione, Cleo. Cleo mangiò una nocciolina. Iggy si alzò, gli girò intorno e gli abbracciò le spalle. Proprio tu mi fai la predica, tu che in tutta la tua vita non hai mai detto di no a nessuno. Non ne ho mai avuto bisogno, erano tutti da te, ribatté lui e si schiarì la gola. A parte gli scherzi, Iggy, non per impicciarmi degli affari tuoi, ma voglio sapere se stai mettendo qualcosa da parte. A che scopo? Rispose lei. Il denaro può ucciderti, lo sai? Proprio oggi un tale mi ha raccontato di un suo zio che lavorava alla zecca nazionale del Kentucky fabbricando soldi per il governo. Aveva un buon stipendio ed è stato sempre benone finché un giorno ha tirato la leva sbagliata ed è rimasto sepolto e schiacciato da 350 kg di decini. Ninni era orripilata. Che cosa terribile! Cleo la guardò come se fosse impazzita. Santo cielo, donna, come fai a credere a quello che esce dalla bocca di mia sorella? Potrebbe essere successo davvero? Sul serio è stato schiacciato da tutti quei decini, Iggy? Certo, erano 350 kg di decini, o 175 di quarti di dollaro, non ricordo bene, ma in ogni caso ci è rimasto secco. Cleo scosse la testa e rise. Casa di riposo, Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 29 gennaio 1986. Ed Couch e sua madre passavano le domeniche in visita, seduti nella cameretta di lei a guardare la televisione. Quel giorno Evelyn pensò che se non fosse uscita al più presto da quella stanza si sarebbe messa a urlare. Quindi domandò scusa e disse di avere bisogno del bagno, che stava in fondo al corridoio. Aveva pensato di andare a sedersi in macchina, ma si era scordata che le chiavi le aveva Ed, così fu costretta a tornare nel salottino con la signora Threadgood. Mentre la signora Threadgood le raccontava della cena della sera prima a Rose Terrace, lei aprì un pacchetto di biscotti al cocco. Doveva vederla seduta a capotavola tutta rossa e agitata. Ma chi? La signora Hancock! La signora Hancock? La signora Hancock se la ricorda, quella tutta impellicciata? Evelyn ci pensò per un attimo. Quella ricca? Proprio lei, la signora Hancock, quella con gli anelli. Ah, ho capito. Evelyn le offrì un biscotto. Grazie, lo prendo volentieri. La signora Threadgood addentò il biscotto e dopo un po' disse: Evelyn, la vorrebbe una Coca-Cola da bere con i biscotti? Ho degli spiccioli in camera mia e se le fa piacere posso offrirle qualcosa di fresco. C'è un distributore in fondo al corridoio. No, grazie, signora Threadgood, ma a lei farebbe piacere qualcosa da bere? No, cara, in genere gradisco sempre una bibita, ma oggi mi sento un po' gonfia e mi accontenterò di un po' d'acqua se non le spiace. Evelyn uscì e tornò con due bicchieri di carta colmi di acqua fresca. Oh, la ringrazio. Mi stava dicendo della signora Hancock. La signora Threadgood la guardò. La signora Hancock? La conosce? No, io non la conosco, ma mi stava raccontando che ieri sera era molto agitata. Ah, è vero. La signora Hancock ieri sera ci ha raccontato che in casa sua ci sono solo pezzi antichi, più vecchi di 50 anni. Secondo lei valgono una fortuna. Guarda che cosa è successo a me, ho detto alla mia amica, la signora Otis. Quando sono nata non valevo nulla e adesso sono anch'io un pezzo d'antiquariato. Probabilmente valgo un bel gruzzolo sul mercato. Rise, divertita l'idea. Poi divenne pensosa. Chissà che cosa è successo del nostro servizio di piatti per le bambole e del carretto con cui giocavamo sempre. Di sabato attaccavamo una capra al carretto che papà aveva costruito per noi bambine e ci sembrava meglio di un viaggio a Parigi. Non mi sorprenderei se mi dicessero che quella vecchia capra è ancora viva. Si chiamava Harry, Harry la capra. Divorava qualunque cosa, rise. Una volta Iggy le diede un intero stick di deodorante e Harry lo mangiò come fosse gelato. Giocavamo con qualunque cosa, ma i Threadgood erano imbattibili nei travestimenti. Una volta la mamma vestì noi quattro bambine come i quattro semi delle carte e partecipammo a una gara organizzata dalla chiesa. Io ero i bastoni, le gemelle erano i cuori e gli ori, ed Essie Roux era le spade, e dietro di noi veniva Iggy, il jolly. Vincemmo il primo premio. Ricordo che un 4 di luglio tutte noi bambine eravamo vestite a stelle e strisce con delle corone di carta in testa. Eravamo in giardino e stavamo mangiando il gelato fatto in casa in attesa che cominciassero i fuochi artificiali. Quando da dietro casa spuntò Buddy con uno dei vestiti eleganti di leone e un nastro sulla testa. E cominciò a fare il vezzoso per imitare Leona. Poi, a peggiorare ulteriormente le cose, Edward o Julia, non ricordo più chi, portò in giardino la pianola e attaccò a suonare lo sceicco da rabbia, mentre Buddy ballava la danza del ventre. Eravamo morti da ridere. Dopo Buddy diede un grosso bacio a Leona. Sapeva farsi perdonare qualunque cosa. Quando era buio, papà faceva venire quelli dei fuochi d'artificio e offriva lo spettacolo a tutta la città. Venivano persino i neri da Trudeville. Che spettacolo! I fuochi artificiali esplodevano, illuminavano tutto il cielo e i ragazzi naturalmente facevano scoppiare i loro petardi. Poi, quando era tutto finito, rientravamo in casa, ci sedevamo in salotto ed Essie Roux ci suonava il pianoforte, il successo dell'anno. Intanto Iggy, seduta sull'albero, ululava. Iggy era sempre in pantaloni e a piedi nudi. Era meglio così, però, perché avrebbe rovinato qualunque vestito, abituata com'era a salire e scendere dagli alberi, senza contare che andava sempre a caccia o a pesca con Buddy e gli altri fratelli. Buddy diceva che sapeva sparare meglio di un ragazzo. Era carina, ma un giorno Buddy le tagliò i capelli e allora avrebbe potuto passare per un maschiaccio. Ma tutte le ragazze Threadgood erano carine. Ci tenevano, anche e soprattutto Leona. Era la più vanitosa e non era mai disposta a scherzare sull'argomento. Naturalmente io ero appena passabile perché ero troppo alta. Per sembrare più bassa camminavo un pochina, ma mamma Threadgood mi diceva sempre: Ninni, il Signore ti ha fatta così alta perché tu sia più vicina al cielo. Adesso non sono più alta come una volta. Quando si invecchia, sa, ci si rimpicciolisce. E non trova che i capelli siano una cosa strana? Tanta gente ci va pazza per i propri capelli. Immagino che sia naturale. Anche nella Bibbia si parla sempre dei capelli. Sansone, la regina di Saba e quella ragazza che lavò i piedi di Gesù con i capelli. È buffo come i negri vogliono i capelli lisci e noi li vogliamo ricci. Io li avevo castani un tempo, ma adesso usa una lozione per colorarli d'argento. Prima ne usavo un'altra, ma mi faceva diventare i capelli troppo scuri e sembravano tinti. Quando li avevo castani, li raccoglievo in uno chignon e li lasciavo così tutto il giorno. Ma Leona no, i suoi capelli erano sempre argomento di discussioni tra lei e Iggy. Iggy aveva 9 o 10 anni all'epoca e un giorno era andata a Trutville a giocare con dei bambini, così quando tornò a casa aveva i pidocchi. Perciò tutti quanti dovemmo lavarci i capelli con un misto di zolfo, cherosene e strutto. Non avevo mai sentito tanti strilli e tante lamentele, sembrava che Leona stesse bruciando sul rogo. Da quel giorno non volle più parlare con la povera Iggy. Buddy tornò a casa da scuola e vide che Iggy era piuttosto depressa. Lui doveva andare a giocare a pallone quella sera e prima di uscire le propose di accompagnarlo. La portò al campo sportivo e la fece sedere sulla panchina con gli altri giocatori. Questo era Buddy. Non credo che Leona abbia mai perdonato Iggy, non prima di essersi sposata almeno. Leona è stata vanitosa fino al giorno in cui è morta. Una volta aveva letto su una rivista un articolo nel quale si diceva che la collera e l'odio potevano causare le rughe. Minacciava sempre Iggy di ucciderla, ma lo faceva con il sorriso sulle labbra per non sciuparsi la carnagione. Naturalmente Leona si trovò il marito più ricco e il suo matrimonio fu uno splendore. Aveva una paura terribile che Iggy le rovinasse la festa, ma si sbagliava, perché Iggy passò quasi tutta la giornata con la famiglia dello sposo e li affascinò a tal punto che alla sera erano tutti entusiasti di lei. Già a quell'età aveva tutto lo charme dei Threadgood, ma nessuno al mondo ne ha mai avuto più di Buddy Threadgood. La signora Threadgood tacque per un istante, beve un sorso d'acqua e pensò a voce alta: «Sa, questi biscotti al cocco mi ricordano il picnic di quel giorno terribile. Ero già fidanzata con Cleo, quindi avevo almeno 17 anni. Era un sabato pomeriggio di giugno ed eravamo appena stati al picnic della Chiesa Battista. I giovani del paese vicino erano venuti in treno per l'occasione e mamma e Sipsi avevano cucinato almeno 10 torte di cocco. I ragazzi portavano abiti estivi, bianchi, e Cleo aveva appena comprato un cappello di paglia nel negozio di papà, ma Buddy lo aveva convinto a prestarglielo per quella giornata. Dopo il picnic, Essie Roux ed io tornammo a casa con i piatti dei dolci e i ragazzi Threadgood andarono alla stazione ad accompagnare quelli della città vicina, come ogni anno. La mamma era in giardino a raccogliere fichi e io la stavo aiutando quando accadde. Sentimmo il treno partire e mentre stava uscendo dalla stazione lo udimmo fischiare. Poi frenò bruscamente fino a fermarsi e nello stesso momento la ragazza gridò. Guardai la mamma che si portò le mani al cuore e cadde in ginocchio. «Oh no, non uno dei miei ragazzi, Dio mio, non uno dei miei ragazzi!» Papà Threadgood aveva sentito il rumore dal negozio e corse subito alla stazione. Io ero sotto il portico con la mamma quando gli uomini arrivarono con la notizia. Appena vidi il cappello di paglia in mano a Edward, seppi che si trattava di Buddy. Aveva filato per tutto il giorno con Mary Miller e quando il treno era partito si era messo sui binari, si era tolto il cappello e le aveva rivolto uno dei suoi sorrisi disarmanti. Era stato allora che il treno aveva fischiato. Dicono che non l'abbia nemmeno sentito arrivare. Oh, come vorrei che Cleo non gli avesse mai prestato quel cappello di paglia! Scosse la testa. Fu come morire tutti quanti. Ma chi la prese peggio fu Iggy. Doveva avere 12 o 13 anni allora ed era a Trutville a giocare a palla quando accadde. Cleo dovette andarla a prendere. Non avevo mai visto nessuno soffrire così. Pensai che sarebbe morta sulla sua tomba. Spezzava il cuore solo a guardarla. Il giorno del funerale scappò via. Non ce la faceva, poveretta. E quando tornò a casa andò al piano di sopra e rimase seduta per ore in camera di Buddy al buio. E quando non sopportava più di stare in casa andava ad abitare per qualche giorno da Sipsi a Trutville. Ma non versò mai una sola lacrima. Era troppo addolorata per piangere. Sa, un cuore si può spezzare, ma continua lo stesso a battere. Mamma Threadgood era preoccupatissima per lei, ma papà disse di lasciarle fare quello che voleva. Non fu più la stessa da allora. Poi, quando conobbe Ruth, ricominciò a essere la solita Iggy. Io però so che non si è mai veramente ripresa dallo shock della morte di Buddy, come del resto nessuno di noi. Ma ora basta con i brutti ricordi. Inoltre Dio non chiude mai una porta senza aprirne un'altra, ed è per questo che quell'estate mandò Ruth a stare a casa nostra. Il suo occhio è quello del passero, e io so che mi sta guardando. Il giornale della signora Wims, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama, 1° dicembre 1931, stella radiofonica a Whistle Stop. Non abbiamo proprio nulla da invidiare a Hollywood. La nostra Essie Rue Limeway, organista della Chiesa Battista e accompagnatrice del quartetto Jolly Bellis Lady, suonerà il pianoforte ogni mattina di questo mese alle 6:30 in King Vee's Quick Time su Radio Whoopee, come sottofondo alla pubblicità della Stanley Charles Organ and Piano Company. Quando il signor Charles dice: "Ricordate, gente, a Natale potete venire qui a comprare il vostro piano e il vostro organo", Essie Rue lo accompagna suonando Jingle Bells. Non perdetevela. Essie mi ha detto che Stanley Charles ha troppi strumenti in negozio quest'anno e ha bisogno di venderli al più presto. Se andate da lui facendo il suo nome, vi praticherà uno sconto. Il negozio si trova nel centro di Birmingham, proprio alla fermata del tram, di fronte al Gas Hot Dogs. Per finire, la O dell'insegna del salone di Opal è caduta e per poco non ha colpito in testa B di Louis Otis. Opal è contenta che non si sia fatta male, ma non è una strana coincidenza che anche il nome della signora Otis cominci con una O? Julia riparerà l'insegna questa settimana, ma Biddy dice che d'ora in poi passerà dalla porta sul retro. Dot Wims. Postscriptum. Opal ha appena ricevuto una consegna di riccioli di capelli veri, quindi se avete bisogno di capelli supplementari in qualche punto della testa, passate pure da lei.